costui frattanto sia custodito al suo supplicio estremo. Fra brevi istanti o indegno vedrai d'offeso re qual sia lo sdegno. Né al lavor della vita già infelice, né di morte al terror l'alma si scuote. Sol si risente, oddio, d'orilla nel lasciar l'idolo mio. Sì, nei tuoi fiati estremi il nome di Dorilla di Rio Tempo. Tanto perduto sei che sì ti piaccia ancora del tuo morir la reata cagion funesta. E che foglie or, che cecità è mai questo? Decesso mai, decesso d'esser molesta. E lascia con questa cecità ch'io vada a morte. Se tu fossi il mio amor, se eterna fede a te giurato avessi, tanto per te farei. E questa allora cecità non saria, saria costanza. Oh, perfido, in tal guiso poi del mio amore. Ma senti, ho ingrato cuore, ti farò ben pentire del cieco orgoglio. Le mie vendette io voglio. E se una volta lasciami un traditor, Eudonia, ascolta.